quello che mi rimane è la fortuna di stare immerso in questo brodo primordiale, scegliere con chi sprofondare, dargli spazio. La colpa è vostra se metterò quei jeans a vita stretta, è vostra se porto scritto Nike sulla maglietta, che costa un occhio nella testa e porca troia, non sono mica un idra se somiglio ad una bestia. Affamando un boccale di poesia, lascia che tutto ti scivoli addosso, dormi nell'oro, ti svegli in un fosso, pubblica muto non parla allo show, c'è il fiore del mare come Arthur Rimbaud. Vorrei scappare da me, ed un motivo c'è, il bene che in voi c'è. Yeah.